Monaco, 1943. Una ragazza ventunenne, appartenente a un piccolo gruppo di resistenza, sacrifica la sua vita. Arrestata durante un'azione sovversiva dalla Gestapo, è processata e ghigliottinata. La prima cosa che mi è venuta in mente è il fatto che io non penso non mi batterei per nessun ideale, per niente. Che è morta per degli ideali che aveva. Ma questa ragazza si è sacrificata per i suoi ideali. Ha fatto quello che per lei era giusto. Non dico che invidio persone così forti, però mi chiedo quale possa essere stata la differenza che ha fatto crescere me così e una ragazza del genere in quel modo. Quanti anni hai? 22. 21. Quanti anni hai? 23. 24. 24. Mi sveglio, prendo il telefono. Sveglia metà mattinata, cioè verso le 10. Mi sveglio, faccio colazione, vado Colazione con comodo. al lavoro. 2 giorni a settimana vado in palestra, altrimenti torno a casa, mi faccio la doccia, faccio colazione, mi faccio la doccia. Se Uscire un po'. devo uscire, sentire che devo andare qua all'università o in palestra. 2 giorni a settimana vado in palestra. Pranzo verso l'una, allenamenti per finire alle 6. Mi vedo con Matteo e vado a dormire. E basta, più o meno basta. Cosa manca oggi? Lavoro. Intelligenza. Quali sono i tuoi ideali? Il lavoro. I miei ideali sono molto sfocati, non ho ideali ancora. L'amicizia e in generale l'amore inteso come rapporti, però non per forza inteso come creare una famiglia, insomma, dipende. E lavorare con il calcio, costruendo una famiglia per poi avere una casa e così, una famiglia insomma. L'amore in generale. Conosci la storia di Sophie Scholl e della Rosa Bianca? Poco. No. No. No. Credi in Dio? Sì. Sì, decisamente. Non proprio. Ti senti autentico? Abbastanza, non sempre. Cosa ha valore per te? Hanno valore le cose materiali e anche le cose non materiali, i sentimenti e i rapporti. Ma probabilmente ancora non l'ho capito. Chi vuoi essere? Voglio essere una persona forte, No, voglio continuare a essere senza rimpianti. Cosa lascerai ai tuoi posteri? Probabilmente nulla. Sei libero? No. Sei vergine? No. No. No. Un consiglio dei tuoi genitori? Studiavo all'università, laureati. Ragiona sempre su quello che fai. Il senso del dovere. Moriresti oggi per qualcosa? Il calore, la terra, la luce del sole. Vorrei solo saperle apprezzare. Quando la neve cade fitta e non mi permette di uscire, non sono affatto allegra. Spesso non sono di buon umore. Tutti a casa si lamentano del mio broncio. Non piace neanche a me. Le cose che amo. Disegnare. La musica. Sogno ogni notte, ma non sempre ricordo cosa. A volte ho visto l'immagine di un bambino, di me che riuscivo a portarlo in salvo. Fritz. Il mio fidanzato si chiama Fritz. È un soldato e si trova al fronte a combattere. Se arrivasse adesso, certamente diventerei di ottimo umore. È un momento difficile per tutti. Da qualche tempo bisogna stare persino attenti alle parole. anche tra amici. Le persone sono piene di rancori, di cose non dette. È mia opinione che il risentimento le invecchi e le imbruttisca. Potersi fidare è un vero privilegio. Io mi fido... Io credo in Dio. E credo nella verità. La verità è ciò che rende l'uomo libero. Sono una componente della Lega delle ragazze tedesche, ma... Beh, siamo tutti obbligati. Troppo spesso permetto agli eventi di allontanarmi dalla mia anima. Ma sento ogni giorno il dovere di lavorare su me stessa. A volte mi sento così superficiale, ma con mio fratello Hans abbiamo... Mio fratello Hans è uno studente di medicina. E qualche giorno fa mi ha detto: succeda quel che succeda, io ho gettato l'ancora. Mi chiamo Sofia Magdalena Scholl. Ho 21 anni. Studio biologia all'Università di Monaco. Amo il vento. Quando è così forte da spingermi in avanti e quasi posso appoggiarmi ad esso. La la la la la la la la. Per l'amico sincero che mi dà la sua mano franca. Questo cuor con cui vivo. Na na na na na na na na. Robert Scholl. Quando scrivo il tuo nome sulla busta da lettera, provo un forte senso di estraneità. Io che sono abituata a chiamarti papà, devo scrivere signor Robert Scholl. Fa uno strano effetto. Papà, caro papà, non poterti vedere, sentire la tua voce, ascoltare i tuoi discorsi è terribile. Inviarti una lettera ogni 2 settimane è terribile. E potendone tu inviare una sola al mese dal carcere, imparo quasi a memoria tutto quello che scrivi, per quante volte leggo e rileggo. Il tuo arresto è la conferma della mia disillusione. Avevi ragione tu quando provavi a farci riflettere. Quante volte hai tentato di aprirci gli occhi. Non ti sono mai piaciuti i nazionalsocialisti. Eppure ci hai sempre lasciato liberi di fare le nostre scelte, di commettere i nostri errori. Tu ed Hans litigavate spesso. Assistevo ai vostri battibecchi in silenzio. Noi, perfetti esemplari della gioventù hitleriana, non abbiamo capito. Abbiamo agito spinti dalla sensazione che tutto potesse cambiare. Solo ora ci accorgiamo di quello a cui stiamo andando incontro. Ma come potevamo soltanto immaginare quello che sarebbe accaduto? Io cerco di essere vicina alla mamma. Dopo il tuo arresto, a chi mi ha fatto domande, avrei voluto rispondere con la verità, ma so che non posso. Non posso dire la verità. Non posso dire che sei stato tradito e che la Gestapo ti ha arrestato ingiustamente per un commento sul Führer. Queste parole spaventano le persone. Che poi avere paura di essere contagiati da una verità. Non riesco a capire. Il fanatismo sta rimpiazzando la ragione. Dobbiamo stare attenti a come pronunciarci. Un pensiero può valere l'arresto. Stento ancora a crederci. Ormai sono già 2 mesi e ne dovrei scontare altri 2. Qui temiamo ti tolgano la possibilità di insegnare. Sarebbe un grave errore, ma so già che non ti perderesti d'animo. Non tu. È mamma che... Mamma ha paura del peggio. Che appena fuori dalla prigione, come è successo a molti, tu venga trasferito verso i campi. Non voglio dirlo, papà. Lo sai, ad agosto ricomincerò ad andare in fabbrica. Sì, lo so, non mi piace, però passerò vicino alle tue finestre dove... Spererò di vederti. Ho già deciso che porterò con me il flauto per intonare quella melodia che ti piace tanto. I tuoi pensieri sono liberi. I tuoi pensieri sono liberi. Nessuno può indovinarli. Essi fuggono come ombre nella notte. Nessuno può conoscerli. Nessun cacciatore può spararli con la polvere da sparo e il piombo. I tuoi pensieri sono liberi. La musica mi scalda, papà, ma sono stanca delle limitazioni. Ci siamo ridotti ad ascoltare da certe radio che trasmettono solo su stazioni ideologicamente pure. Ma che assurdità. Io a volte ascolto la musica. Quella musica. I miei pensieri sono liberi. Ma come si fa? Come è possibile proibire l'armonia? Come è possibile proibire l'armonia? Maybe my sugar, that sugar baby of mine, he's special ration for me. He never asks for my money. All that I give him is honey, and that he can spend any time. I'd make a million trips to his lips if I were a bee, because he's sweeter than chocolate candy to me. He's confectionery sugar. I never cheat on my sugar, 'cause I'm too sweet on my sugar, that sugar baby of mine. Sono abbastanza anonima. Yeah. Sofia Magdalena Scholl. Siete Sofia Magdalena Scholl. Sì. Appena 21 anni, il sesso più debole. Precedenti? No. Signorina Scholl, i volantini distribuiti all'università rientrano sotto la speciale giurisdizione dei tempi di guerra. Sapete come viene punito il reato di alto tradimento? Io non c'entro, signore. Con l'arresto, il carcere a vita o la pena di morte, io davvero non c'entro, signore. Sigaretta? No, grazie. Voi non fumate? Solo di rado. Perché mai portavate una valigia vuota all'università? Perché dopo sarei andata a Ulm a riprendere la biancheria che ho fatto lavare da mia madre. Non portavate panni sporchi da lavare a Ulm? No, lavo quelli piccoli a mano e non avevo altro da portare. Le circostanze in cui siete stata fermata fanno sospettare di voi. Vi consiglio di dire immediatamente tutta quanta la verità. Possedete una macchina da scrivere. Ce l'ha data in prestito la nostra padrona di casa perché mio fratello Hans ne aveva bisogno per scrivere. Cosa? Un trattato su temi di teologia e filosofia, non i volantini invece. No, forse trattava argomenti di teologia e filosofia come Hitler non riuscirà a vincere la guerra o libertà. Non l'ha scritto Hans, voi allora. No. Eppure voi credete in questi ideali. Io sono e resto apolitica. Con quella macchina da scrivere sono stati redatti i volantini che poi sono stati persino distribuiti in altre città. Io non ne so niente. Ora mi avete stancato. Chi oltre a vostro fratello ha scritto quei volantini? Basta con le insinuazioni. Avete taciuto, signorina. La presenza di prove in casa vostra, nonostante vi avessi ordinato di dirci tutta la verità. Io dico soltanto quello che so. Vostro fratello ha confessato. Nel protocollo ha dichiarato di aver fatto tutto da solo. Ha affermato di aver scritto lui i volantini e di averli distribuiti dopo averli copiati. Signorina Scholl, voi abitate insieme a vostro fratello. Volete farci credere che non ne sapevate niente, che pensavate fossero dei semplici folli innocenti. Confessate di aver scritto voi insieme a vostro fratello quei volantini e di averli distribuiti dopo averli copiati. Sì, e di questo ne sono fiera. Che cosa farete a me e mio fratello? Dovevate pensarci prima. Arresterete anche la mia famiglia. Non spetta a me decidere. Ho bisogno di andare in bagno. Non adesso. Ditemi chi ha spedito quei volantini. Io. Mentite di nuovo, signorina Scholl. Allora, su quei volantini leggiamo: noi non restiamo in silenzio. Siamo la vostra cattiva coscienza. La rosa bianca non vi darà tregua. Che cosa intendete per noi? Siamo stati io e mio fratello. Sui volantini, in fondo, leggiamo: per favore, inoltrare e duplicare. E si parla anche di un movimento di resistenza. Questo non è il lavoro di un singolo. Non c'è nessun gruppo. Per favore, signorina. Maledizione, volete dirmi la verità oppure no? Maledizione, volete dirmi la verità oppure no? Esigo che mi riveliate i nomi qui e immediatamente. Allora, signorina, secondo i nostri calcoli, la cosiddetta rosa bianca si sarebbe riuscita a procurare ben 10.000 fogli, oltre 2.000 buste da lettera, soltanto nel mese di gennaio. Chi se n'è occupato? Siamo stati io e mio fratello. Potrebbe anche essere vero. Del primo volantino ci sono soltanto 100 copie, ma volete spiegarmi come sia possibile che voi e vostro fratello da soli siate stati in grado di stampare migliaia di copie dell'ultimo volantino per poi distribuirle ovunque. Abbiamo lavorato giorno e notte. I miei complimenti. Dopo le lezioni che frequentavate assiduamente, volevamo far credere che la resistenza avesse delle ampie basi. E dove avete preso tutti gli indirizzi? Dall'elenco telefonico del Deutsche Museum. Avete riflettuto sulle conseguenze? Perché non volete considerare la possibilità di collaborare? Potremmo essere più clementi con voi. Pensate anche ai vostri poveri genitori. Signor Mohr, voi ci accusate di alto tradimento e ora mi state chiedendo di tradire altre persone per migliorare la mia posizione. confessare un crimine, signorina, non è affatto un tradimento. Voi non avete piazzato una bomba. Forse avrete usato gli slogan sbagliati, ma i vostri mezzi sono pacifici. E allora perché volete comunque punirci? Perché così è previsto dalla legge. Senza legge non c'è ordine. Punire la libertà con la prigione o la morte, questo lo chiamate ordine? E a cosa dovrei appellarmi, secondo lei, se non alla legge? Chiunque sia stata a formularla, alla coscienza. Sciocchezze. Non resterebbe nient'altro che il caos. Senza Hitler e il suo partito ci sarebbe ancora giustizia e ordine. Voi usate termini molto offensivi, signorina. Voi usate termini molto offensivi, signorina. Voi siete offensivo. Definite me e mio fratello criminali per dei volantini. Abbiamo solo cercato di informare e di convincere la gente con delle parole. Voi e tutti quelli come voi abusate senza vergogna di ogni privilegio. Studiate a nostre spese in tempi di guerra, ma come vi permettete, come osate criticare il nostro operato, il Führer e il popolo tedesco vi proteggono, e come? Arrestando tutta la mia famiglia. Che cosa direte quando arriverà la vittoria finale? E se il Führer fosse pazzo? Pensate solo all'odio razzista. Una volta, quando ero a Ulm, avevo un insegnante ebreo. Ma un giorno l'SA arrivarono, lo fermarono e lasciarono che tutti quanti a turno gli sputassero in faccia. Scomparve quella stessa notte come le migliaia di ebrei deportati nel campi di lavoro nel 41. Gli ebrei emigrano da sempre. Quella gente causa soltanto problemi, ma come potete pensare che quelle persone siano? I soldati che tornano da est hanno visto i campi di sterminio. Hitler vuole eliminare tutti gli ebrei d'Europa, predica questa follia ormai da 20 anni. Come potete credere che gli ebrei siano persone diverse da noi? Quella gente causa soltanto problemi, ma voi siete una generazione confusa e non capite. Siete stati educati male, forse la colpa è nostra, e cosa mi dite allora di quei bambini ritardati uccisi con il gas e con il veleno? Sarei stata educata male perché provo pena per quella gente. Si tratta solo di esseri inferiori. Voi avete studiato da infermiera, avrete visto migliaia di bambini ritardati, sì. E in nessun caso ci si può arrogare il diritto di un giudizio che spetta soltanto a nostro Signore. Ogni singola vita è preziosa. Signorina Scholl, quello che dite è avulso da qualsiasi realtà. Io parlo di realtà. Parlo di decenza, di morale, di Dio. Dio. Dio. Dio non esiste. Allora, signorina, vostro fratello vi ha convinta dicendovi che era giusto quello che stava facendo e voi lo avete semplicemente aiutato. Non dovremmo scrivere così nel protocollo. No, perché non è vero. Dannazione, se almeno voleste riflettere a dovere. Rischiate la vita. Bene, secondo il protocollo siete disposta ad ammettere che i fatti da voi commessi siano da considerarsi criminali e che vadano puniti con il massimo della pena. Dal mio punto di vista non è così. Ammettere il vostro errore non significa tradire vostro fratello, ma tradirei le mie idee. E io non rinnego nulla. Sono convinta di aver agito nell'interesse del mio popolo. Non mi pento di questo. E ne accetterò tutte le conseguenze. Sofia Magdalena Scholl, la vostra esecuzione è fissata. Signor Mohr, vi auguro una vita onesta e libera, anche se sarà difficile. Per le ore 17 di domani, 22 febbraio, non ho 99 giorni, come tutti. Contrariamente a quanto previsto dal protocollo. Prendete questa sigaretta. Fate presto. 22 febbraio 1943. In nome del popolo tedesco, nella causa contro Hans Scholl e Sofia Magdalena Scholl, il Tribunale del Popolo, prima sezione, accertato che gli accusati hanno incitato al sabotaggio, al rovesciamento dello stile di vita nazionalsocialista, propagandato idee disfattiste, diffamato il Führer, sfidato lo spirito del popolo tedesco in modo vergognoso, indebolendo la sicurezza armata della nazione, per questi motivi il loro onore e i loro diritti di cittadini sono revocati per sempre. Per la protezione dello Stato e del Reich in guerra, il Tribunale del Popolo ha trovato soltanto una giusta punizione: la morte. Gli imputati, in quanto criminali dichiarati colpevoli, pagheranno le spese legali. Il Tribunale del Popolo sa che i soldati sono con lui in questa decisione. Padre nostro, che sei nei cieli. Padre nostro, se sei nei cieli, ascoltami. Devo aver sbagliato la mia preghiera. Ero distratta. Le lacrime che sto versando non sono nient'altro che le mie richieste esaudite. I desideri, la mia vena di indifferenza, il passo spensierato che avevo. La strada sta diventando impraticabile. Mi illudo di avanzare mentre sto indietreggiando di corsa. Sto sprofondando, inghiottita da un vuoto scintillante. Il vuoto era lì. Non sono stata attenta. Mi ha chiamato a sé con un sorriso falso, quel suo sorriso vincente. Io. Mi ha accecato. Mi confonde, cerca di farmi credere che io sia a mio agio in questo stupido orrore. Una fotografia. Una festa sempre accesa dietro ogni angolo. Un ideale che non è il mio. Un desiderio che non so più. Non lo sento più. È un po' tardi, forse. Non potrei pregare in nessun altro modo, perché ancora sono troppo in basso per poter pregare. E allora prego di imparare a pregare. Le cose incatenate. Avere 20 anni. Le cose che ho fatto, quelle che farò. Quelle che non farò. Un ultimo abbraccio ai miei genitori. La poesia, la musica. I miei genitori. Sono in trappola. Sopravvivo. Ai, ho male alle ginocchia. Ho male alle ginocchia. Ho paura. Il vento, la luce del sole. Vorrei solo saperle apprezzare. Quando la neve cade fitta non mi permette di uscire, non sono affatto allegra. Non sono sola. La luce. La gabbia. Lasciare un po' di spazio. Che non è vero che tanto ci pensa qualcuno. Raccogliere i desideri, i sogni. Riflettere. Alzarsi. Svegliarsi subito. Non vale che tanto ci pensa qualcuno. Uno. Nessuno. Ognuno merita il governo che tollera. Prendere coscienza. Coprirsi di vergogna se necessario e poi desiderare. Divorare l'anima che vuole mangiarci. Avvolgersi di senso, sempre. Ricordare, sempre. Tenere a mente tutte queste cose. Ora che sbiascichi le intenzioni, i sensi, sbiascichi le parole, non urli più. Più non ti ribelli, scuoti il vuoto, contratti le ore, ti agiti e intanto stai fermo. Vuoi negoziare tutto. Ancora. Togliti i vestiti, tutti. I vestiti di scorie, di maschere, di gocce di petrolio. Lava i capelli di plastica, le mani dure come il solco del pianto. Diventa grasso, almeno una volta nella vita. E nella vita nuotaci dentro, a gambe e braccia spalancate. Parla piano e fatti sentire, fatti capire. Ascolta la voce della tua cattiva coscienza, quella più cattiva messa in un angolo, emarginata, quella più cattiva. Diffondeteli. Diffondeteli. Diffondeteli. Diffondeteli. Duplicate e diffondete. Ognuno merita il governo che tollera. Duplicate e diffondete. Sincero che mi dà la sua mano franca, per chi mi vuol male mi stanca questo mio cuor con cui vivo. Cardine, ortiche, coltivo, coltivo una rosa bianca. La rosa bianca, formata da 5 studenti universitari, sfidò il regime nazista facendo informazione tramite la diffusione clandestina di volantini in Germania e Austria. Quei fogli raccontavano gli orrori che si stavano consumando ai danni degli ebrei. Informavano sulle sconfitte militari naziste. Facevano appello ai grandi ideali della cultura. Esortavano il popolo tedesco alla ribellione, al sabotaggio, alla diserzione. Dal volantino. Per un popolo civile non vi è nulla di più vergognoso che lasciarsi governare senza opporre resistenza, da una cricca di capi privi di scrupoli e dominati da torbidi istinti. Se i tedeschi sono già così privi di ogni individualità, se sono diventati una massa vile e ottusa, allora sì che meritano la rovina. Goethe definisce i tedeschi un popolo tragico come gli ebrei e i greci. Ma oggi questo popolo sembra che sia piuttosto un gregge di adepti, superficiali, privi di volontà, succhiati fino al midollo, privi della loro essenza umana e disposti a lasciarsi spingere nel baratro. Così sembra, ma non lo è. Ogni individuo è stato chiuso in una prigione spirituale mediante una violenza lenta, ingannatrice e sistematica. E soltanto quando si è trovato ridotto in catene si è accorto della propria sventura. Soltanto pochi hanno compreso la rovina incombente ed essi hanno pagato con la morte i loro eroici ammonimenti. Perciò ogni singolo deve coscientemente difendersi con ogni sua forza, opporsi in quest'ultima ora al flagello dell'umanità, al fascismo e ad ogni sistema simile di stato assoluto. Fate resistenza passiva. Resistenza ovunque vi troviate. Impedite che questa atea macchia di guerra continui a funzionare, prima che le altre città siano diventate un cumulo di macerie come Colonia, e prima che gli altri giovani tedeschi abbiano dato il loro sangue per ogni dove a causa dell'orgoglio smisurato di un criminale. Non dimenticate che ogni popolo merita il governo che tollera. Vi preghiamo di ciclostilare questo foglio nel maggior numero possibile di copie e di diffonderle. Il 22 febbraio 1943 Sophie Scholl fu ghigliottinata all'età di 21 anni dal Tribunale del Popolo di Monaco di Baviera, per tradimento contro lo Stato e il Führer. Insieme a lei vennero decapitati il fratello Hans, Christoph Probst, e due mesi dopo Alexander Schmorell, Willy Graf e il loro professore di filosofia, Kurt Huber. Alle 7 di lunedì 22 febbraio, i detenuti vennero prelevati nelle celle. Ilse Gebel, la compagna di cella, racconta di essersi controllata a stento mentre diceva addio a Sophie, che invece restò calma. Ilse trovò l'atto di incriminazione. Sul retro Sophie aveva scritto Freiheit, libertà. Sophie fu la prima. Camminò eretta attraverso il cortile, scortata dalle guardie. Entrò. Erano le 5 del pomeriggio. Erano trascorse 3 ore dalla conclusione del processo. Si udì un rumore sordo. Era finita. Quando toccò a lui, Hans attraversò il cortile a passo svelto e prima di arrivare alla porta si voltò e gridò in modo che la sua voce potesse raggiungere le finestre sprangate. Evviva la libertà. Duplicate e diffondete.